Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marcello, alla conduzione tecnica Simone. Uni. È venerdì, finalmente. Come tutti i venerdì. Thanks God it's Friday. All in English this evening. No, okay. No, ho sbagliato. Se è inglese no, non volevo dire quello che ho detto. 12 febbraio 2016, sono le 22.05, questa è Piazza Alta, questa è Radio F. Sulle magiche frequenze 89.2, Enzo. Però io prima di iniziare a fare qualunque cosa direi di andare con il primo brano, poi siamo vicini perché a San Valentino. Perché la radio, prima di tutto, che cos'è? Cos'è? Musica. Ah, ed è San Valentino, quindi iniziamo tra subito poco, con canzoni d'amore. Amore, ore. Ore, ma ore, anche giorni direi. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Canzoni più famose di rock di tutti i tempi, incredibile. È San Valentino, quante coppie si saranno veramente innamorate, no. Sulle note tranquille e sorridenti di questa rock, I Love Rock di John Jett, ma lo dico così come sì, se lo sapessi, sarà San Dir, direi. Era il 1982, ma finalmente veniamo, quante cose sono successe nel 82, ma per esempio sei anni prima, nel 1976 partiva Radio F. Qui ci state ascoltando, cari amici, chiaro. Ma come possono farlo? Con il modo tradizionale, con l'89.2 in FM, ma con i metodi anche meno tradizionali e più innovativi, più tecnologici. Sembri anziano quando fai così. Ma io sono anziano, sospetto di essere stato anche presente all'inaugurazione del 76. Di Marcoiano, su www.radiof.it e sulle app. E sulle app, sia per Android che per Apple, per l'iPhone. E poi il nostro profilo Facebook, abbiamo Twitter. Numero... Bravo, ma ricordiamo il numero di WhatsApp. Questo riesce bene a me. 392-4900-800. Cosa possono fare lì? Possono scriverci, possono segnalarci tutte le nostre beltà, tutti i nostri pregi. Tra l'altro vogliamo ricordare che domenica scorsa siamo andati in diretta in un esperimento, sì, speriamo ben riuscito, dal Carnevale di Foiano della Chiara, che tutte le settimane fino al 28 andrà in onda, stavo dicendo. Sì, è stata una bella esperienza. Che non, si... non lo so se no, si riferirà. Vabbè, ma parliamo della serata di questa sera. Stasera, caro il mio Marci, parleremo di una cosa ancora, ma di nuovo... Attenzione, attenzione! Effetti sonori da Foiano, le nuove avanguardie musicali. Effetti sonori, un'icona dei nostri tempi. Dall'amore per la musica, un ensemble della coralità e della musicalità foianese. Effetti sonori, una fucina per gli artisti di oggi e di domani. Un segno che a Foiano le note musicali suonano, ma soprattutto girano. Questa sera a Piazza Alta. Fuslide, caro il mio Marci, con Love Song. D'altronde, domani l'altro è San Valentino. E il nostro Simone ha pensato bene di onorare con una scaletta sul musicale, non tanto con canzoni mielose, ma con canzoni che riportassero la parola amore, o in italiano, o in inglese. E noi vogliamo onorare questa festività e ci siamo fatti un regalo, perché ospiti di questa sera sono tutte donne. Che bel collegamento. Ma e chi sono queste donne? Cioè, o meglio, di che cosa fanno parte? Fanno parte dell'entourage dell'associazione Effetti Sonori. Effetti Sonori, che domani sera rappresenterà un loro spettacolo nella sala Furio del Furia di Foiano della Chiana alle ore 21. Amor bizzarro. E perché, Enzo, a noi ci fa piacere che siano qui con noi questa sera? Perché sono stati anche, li abbiamo un po' conosciuti l'anno scorso, nella precedente edizione di Piazza Alta. E però nel corso di quest'anno che è passato, che è successo? Sono successe tante cose, cioè avevamo parlato del livello qualitativo, ma qui il livello qualitativo sale sempre di più. E abbiamo due ospiti. E quindi infatti, noi facciamo un po' da, non da mecenati, ma da mentori, perché seguiamo il cammino evolutivo e qualitativo di questa associazione che nell'ambito culturale e musicale sta prendendo... Finita l'ora. Sono felice di questa cosa. E abbiamo i nostri ospiti qui in studio, Laura Moretti. Buonasera. Nadia Padrini. Buonasera. Che ci parleranno a partire dal prossimo intervento, perché ormai abbacinati dal discorso fiume. Starò zitto per tutta la No. Tra l'altro hai usato mecenate e mentore. Mentore. Si è alzato il livello. Iniziano tutte per M. Parleremo con loro appunto di... sono qui a rappresentare Effetti Sonori. Vi facciamo subito una prima domanda, tanto per ambientarci. Il vostro ruolo all'interno dell'associazione. Allora, noi siamo due consigliere che in effetti siamo state prestate questa sera a fare un po', diciamo... Da rappresentare un po' da PR, perché in realtà solitamente ci occupiamo del catering. Ma noi è per questo che vi abbiamo voluto. Sapevamo un po' di questa cosa, noi il catering è una delle cose fondamentali che ci interessa. Probabilmente la trasmissione si sposterà anche sul discorso mangiareccio, cioè ci darete un paio di ricette che poi ricordiamo che il presidente l'anno scorso fu lui a intervenire, esatto, appunto, sì, nella trasmissione. Non si parlò di cucina, quindi fu noiosissima. Allora fu il presidente, diciamo il nome, che è il dottor Roberto Reali, che si presta tantissimo per questa associazione, sì. E il segretario, che è Carlo Scapetti. Che stasera purtroppo sono impegnati nelle prove. Diciamo per il menù estivo. E dunque andiamo col prossimo brano, ricordando che dopo parliamo della ricetta dei tortelloni. Simpatici amici, buon ascolto dalle F Frequenze. We'll be right back. questo gruppo musicale che semi sconosciuto, un po' una meteora, sì, e queste menti semplici, Simple Minds con Lost Song. Era il 1981, andiamo a ritroso. In quanti modi si può cantare l'amore? Appunto, in quanti modi si può cantare l'amore e si può sviluppare l'arte in tutti i suoi... Perché? Stasera ne abbiamo degli esempi molteplici. Allora, siamo a Radio F, magari sì, qualcuno sta passando, ha sintonizzato. Ma chi è questa bella voce che parla? È quella di F. Chi è quello che gli dà noia? Marcello. Ma gli ospiti di questa sera? Ma soprattutto... Laura Moretti e Nadia. Così è, di effetti sonori, perché siamo a parlare di questa associazione che tanto ci ha dato, Foianese di Foianese, e che tanto ci darà, certo, e che potremmo raccontarvela in mille modi, ma perché non chiederlo direttamente alle nostre dirette interessate? Allora, la prima domanda nasce spontanea: che cos'è effetti sonori? Allora, effetti sonori è un'associazione che nasce 3 anni fa, a dicembre del 2011, e ha 90 soci, di cui 50 sono iscritti ai corsi che sono stati attivati all'interno dell'associazione. Sono dei corsi di pianoforte, violino, violoncello, chitarra, canto, e ogni... Quindi siamo nell'ambito della musica. Sempre nell'ambito della musica, e fra l'altro questi corsi sono pianoforte, per esempio, è seguito da Elisa Pasquini e Niccolò Nardoianni, mentre quello di violino da Gerardo Fidel, quello di violoncello da Filomena Di Curzio. Prego. C'è Marci, che ogni tanto ha bisogno di attenzione. Ho visto Simone atterrito, come dire, che cosa mi è partito? È Marcello che le manine, scusaci. No, prego. Così. Allora, violoncello Filomena Di Curzio, questi sono tutti insegnanti, uh-huh, chitarra Gilberto Russo e canto Elisabetta Materazzi. Ora, questi sono degli insegnanti veramente bravi, diplomati in conservatorio, e hanno una carriera artistica avviata molto bene, sì, e quindi sono anche persone d'esperienza, hanno coinvolto veramente bene i nostri ragazzi. Hai detto sono circa 50? Sono 50 gli alunni iscritti alla scuola, i 90 sono i soci. I soci, i ragazzi... perché vogliamo ricordare che, volendo, chi... Bene, sì, sì, la necessità, in effetti, potrebbe, a qualunque età, pagando la tessera, a qualunque età, sì, è un contributo per l'associazione, certo, si può diventare soci del gruppo. Bene. Mentre invece i corsi hanno un limite di età per... No, addirittura c'è... No, come dice Roberto Reali, ci sono sia giovani che diversamente giovani. Beh, mi sembra giusto. Avete anche un direttore artistico, giusto? Sì, Elisa Pasquini. Quindi, che noi tra l'altro abbiamo già conosciuto l'anno scorso. Esatto, nella scorsa edizione. Vuoi fare una domanda intelligente? No, in questo momento non mi viene. Me la devo preparare. Allora, cioè, avete detto già un po' di nomi. Abbiamo detto che il presidente è Roberto Reali. E voi siete tra i fondatori di questa associazione? Sì, noi siamo tra i soci fondatori. Come, vi siete trovati una sera? Avete sentito il bisogno? No. In realtà non è così. L'associazione è nata... diciamo che 3 anni fa circa c'è stata una proposta della provincia per avvicinare i ragazzi, i giovani, ai cori, alla musica corale. E è partito questo progetto, e alcuni ragazzini di Foiano ci sono andati, hanno fatto una rappresentazione con il Vox Cordis di Arezzo, okay, e lì collaborava Elisa Pasquini. Nel frattempo aveva già incominciato a dare delle lezioni di pianoforte. Erano già state attivate, in cui gli iscritti erano pochi, erano 4 o 5. Sì. E da lì ha incominciato a pensare, anche col fatto che ha visto questi ragazzi che sapevano, insomma, cantare, che si erano appassionati a questa cosa, ha incominciato a pensare di creare lei stessa qualcosa che fosse più, diciamo, coeso con quello che era il paese di Foiano. Infatti diversi ragazzini hanno incominciato ad andare lì. All'inizio erano 5-6, poi sono diventati sempre di più, di varie età, dai 15 ai 23-24 anni, ecco. E da lì è partito, poi sempre di più, i ragazzi si sono appassionati, insomma. Anche perché a Foiano, in termini di coralità, c'è anche una tradizione consolidata. Sì, c'è una tradizione, il gruppo polifonico che ormai ha una storia trentennale, quindi... Sì, ha avuto anche degli alti e bassi, ha cantato anche Marcello. Sì, anche io. Non lo denigrare perché Laura... No, ma il basso era solo Marcello. C'è stato delle avventure importanti. E questa è una cosa importante, perché alle volte anche soltanto l'età può far propendere verso una espressione artistica o un'altra. Alle volte il coro viene, il coro diciamo sì, polifonico, in effetti, sì. Dalla fascia d'età dei più giovani può sembrare, ecco, un'attività che magari coinvolge più una fascia d'età un pochino più matura, però in realtà io parlo anche come esperienza personale, da ex corista, certo. È veramente un mondo che ti apre a tanto, nel senso, io, a me mi ha dato la possibilità di fare veramente tante esperienze, di viaggiare all'estero, di accrescermi proprio, oltre che culturalmente, anche dal punto di vista proprio umano, sì, sì, esatto, di socializzazione, per cui da tanto. E secondo me, ecco, questa cosa che noi abbiamo poi ricreato un po' con gli effetti sonori, con il gruppo giovanile degli effetti sonori, ha come, diciamo, aperto, punto fondamentale questo, cioè creare la possibilità a dei ragazzi che sono giovani di entrare in un mondo che alla fine non è soltanto per una fascia di età giusto più matura, ma anzi, guarda, soprattutto mi ricollego a quello che sta dicendo Laura, è il fatto di essere non solo dei solisti, che può anche accadere, ma sentire l'equilibrio, la partecipazione di tutto, certo, il gruppo, sì, di tutto, sì, il coro nella realizzazione di un'opera d'arte musicale. Ad ascoltare. No, è un momento di condivisione importante. Io anche i momenti, a parte la rappresentazione, ma anche i momenti magari di preparazione, di concorsi. Certo. Sono momenti veramente che ti coinvolgono emotivamente in gruppo e creano una coesione che secondo me è quella che alla fine ci fa riavere la dimensione anche della vita, anche di paese un po'. Guarda, 30 anni fa erano i social questi, i social. No, ma ti dirò di più, che mi viene fuori un discorso da persona anziana, quale non quale sono. Quale te l'ho fatto venire fuori. Ma perché mi viene la nostalgia di non aver avuto l'occasione quando ero ragazzo di trovare occasioni appunto del genere, quando hai fatto altre cose. Ma infatti è una bellissima occasione. È una bellissima occasione. Veramente, sì. Guarda, io posso dire, bisogna anzi necessariamente dire che tantissimo si è prestato anche Roberto Reali, guarda, veramente si è speso moltissimo, sì. Ha dedicato tantissimo tempo a, sì, questa associazione. Che ha trasmesso l'esperienza, perché lui viene comunque da esperienze pregresse di coralità, perché, certo, ha cantato nella Corradini, poi è stato anche lui uno dei soci fondatori del gruppo polifonico, quindi ha alle spalle un'esperienza corale. E poi i ragazzi hanno risposto veramente bene, con passione, sì, con interesse. E vi posso dire, ecco, questo da mamma, perché noi siamo due genitrici di ragazzi che cantano nella corale, che veramente da adulto che guardi la rappresentazione, al di là dell'estetica musicale, che può essere più o meno bella, perché magari, certo, un brano può venire meglio. Solo però, io ho la perfezione, insomma. È bellissimo vedere veramente l'affiatamento. Questo gruppo di giovani, immagino. Questo che veramente... Non volendo, ho detto una cosa intelligente. Ma non lo dire, ora però t'azzitto un po'. Allora, come vedete, anzi come sentite, le cose sono molto interessanti, ma ogni tanto purtroppo dobbiamo ascoltare anche un brano. No, non è vero, questo è uno dei più bei brani che abbia mai ascoltato, quindi e parlerà d'amore. Lasciamo la parola a Simone, anzi il cursore a Simone, e ci risentiamo Lucio tra un po'. Battisti. Bellissima. Meine Damen und Herren, Lucio Battisti. È come bere più facile è respirare, basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no. amarsi un po'. E un po' fiorire. Aiuta, sai, a non morire senza nascondersi. Manifestandosi si può eludere la solitudine, però, però volersi bene no, partecipare è difficile. Quasi come volare, ma quanti ostacoli e sofferenze, poi sconforti e lacrime per diventare noi, veramente noi. Indivisibili, vicini, ma irraggiungibili. Amarsi un po', ma mica tanto, un po'. Beh, è inutile dire. Ma se c'è il sentimento. Però, ma sì, infatti c'è tutto. È inutile dirlo, ma mi devo dirlo. Beh, Lucio Battisti. Ah, non l'avevi mai nominato. Infatti, io sono un po' preoccupato, Enzo, perché forse questo fil rouge, l'amore, San Valentino, a Simone gli ha creato degli scompensi. Perché non era mai. Tra l'altro, dimostrando anche quello che sappiamo, il buon gusto di Simone, questa è una versione non rarissima, ma comunque unica, perché è live per la ZDF, la televisione tedesca, solo chitarra e voce. Infatti si sentiva in sottofondo questo slang tedesco. Questa è Radio F, questa è Piazza Alta. Ricordiamo i canali YouTube sia di Piazza Alta, il nostro, che quello nostro di Radio F, ma poi c'è anche quello Twitter di Radio F e c'è la pagina Facebook su cui domani potrete trovare sulla pagina Facebook di Piazza Alta, domani la registrazione integrale di quello che sta andando in diretta adesso, tant'è che sono le 22:35. Poi sul canale YouTube, chissà, alcune immagini con... Sì, quelle su una sezione a parte. Non dire altro. Siamo in studio, stiamo parlando con le amiche di Effetti Sonori, la Nadia e Laura. Abbiamo iniziato a parlare un po' del perché nasce, di come è nata l'associazione Effetti Sonori, e siamo rimasti affascinati perché la cultura, la musica, a noi ci piace, non la sappiamo suonare. Che ti è suonare, estranea, ovviamente. Del tutto, è proprio... E proprio per questo, quando le sento parlare, rimango affascinato. Ora fai una domanda. Io adesso sono molto incuriosito perché, come avrai ben capito, ho un trascorso nemmeno tanto glorioso, però in campo corale. Non a caso. L'associazione Effetti Sonori, ho capito che si diciamo, occupa non solo di coralità, di voce, ma anche di strumenti. Di insegnare non solo l'educazione vocale ma anche musicale per strumenti tipo pianoforte. Sì, si è detto pianoforte, esatto. Violino, violoncello, chitarra e canto. E questa è una cosa, secondo me, molto interessante, perché diciamo, alle volte uno si specializza, tra virgolette, o è più portato per un genere di arte musicale, invece qui mi sembra di capire che... Cerchiamo un po' di raggruppare, ecco, tutto quello che riguarda la musica, non ultimo appunto le lezioni di canto tenute dalla maestra Elisabetta Materazzi, che... cominciano ad avere anche abbastanza seguito, perché ma poi in questo caso, scusate, canto di che tipo? Allora, è tecnica di canto, ecco, tecnica poi, che ti apre a tutto. Stavo pensando a quando arriverete ai gonghi. No, tecnica di canto, poi è la maestra che rispetto all'alunno che si trova di fronte, poi trova un po' il genere musicale che si adatta un po' alla vocalità. Parecchi anche esercizi fa fare, cioè proprio anche la voce come strumento. Sì. Ecco quello che lei insegna. Vocalizzi. Cioè lei parte dal presupposto che tutti possano cantare sapendo perché usare non bene lo strumento. Mio marito, però più stonate. Però in questo caso è vero che anche la voce va educata, sì, certo, un minimo certo. Di tecnica no, contribuisce. È a... fondamentale secondo lei. Per esempio. Prego. Scusa. Per esempio i ragazzi che hanno cominciato e qui insomma si è appassionato in particolar modo al canto, ha provato ad andare appunto a questo corso e ha notato un'espansione per esempio anche della voce estremamente importante e inimmaginabile all'inizio, proprio perché lei insegna la tecnica l'impostazione. E l'impostazione, lo strumento della voce. Sì. Pensa, io vi ascolto con un'invidia vera, perché sta esercitando le no ma non solo per la voce, perché il mio sogno sarebbe stato sempre quello di saper suonare il pianoforte, e io invece so fare con due dita per Elisa perché poi sbaglio. Comunque non è mai troppo tardi, perché nel corso del pianoforte, sì, per esempio, ci sono tante persone decisamente maturi. Sì. Ma stasera sto maturando una decisione importante. No, ma il problema di Enzo è la lunghezza delle dita. Allora, non lo so, non c'entra niente. Tanti anni fa c'erano i corsi di chitarra nel nostro paese, io sono andato alla prima lezione, ho le dita piccole, mi venivano i crampi alle dita sinistra, ho rinunciato dopo una prima lezione, dopo aver comprato la chitarra, però, una Clarissa di una seconda mano. Però comunque, sicuramente provo a rifare il serio. Tutto questo è sì una soddisfazione per chi insegna e per chi impara, però poi il bello è arrivare alla fine. Una volta c'erano i saggi, non so voi cosa fate alla fine. Sì, anche noi in realtà abbiamo, diciamo, degli appuntamenti fissi che coprono tutto l'arco dell'anno, sia corali che musicali. Diciamo che la rappresentazione saggistica musicale c'è sia a Natale che alla fine dei corsi a giugno. Sì. E poi ci sono gli appuntamenti fissi della corale, che sono il Gaudeamus Igitur, che è una rassegna di cori nel quale partecipano anche cori che sono ospiti da noi ad ottobre. Poi a Natale c'è l'appuntamento del concerto di Natale. Ok. E poi fate, immagino, anche invece poi delle cose che sono il frutto del lavoro di ogni anno. Spettacoli. No, il primo spettacolo, quello che viene questo. Proprio okay. è un appuntamento importante. È iniziato ovviamente l'anno passato, la prima volta è stato fatto l'anno passato, okay. Quest'anno ha proseguito. L'anno scorso si chiamava Umor Bizzarro, mentre quest'anno Amor Bizzarro. Attenzione, perché qui diamo anche un appuntamento. Esatto, sì. Però allora, l'abbiamo già ricordato all'inizio, Amor Bizzarro andrà in scena domani sera alle 21 nella sala comunale Furio del Furia a Foiana della Chiana. Sì. Ne parliamo dopo il prossimo brano più approfonditamente. Mi piace perché la frase che chiude la presentazione dello spettacolo dice: perché chi non ride mai non è una persona seria. Siete nel posto giusto. Siete nel posto giusto. Sì. Giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. La commozione, almeno personale, è tanta. Parliamo di buona musica con gli amici di Effetti Sonori, il maestro Fabrizio De André, amore che vieni, amore che vai. E io potremmo dire tutto, ma forse faremo meglio a non dire niente. Allora, alla prossima. Ah, no. dicevo in riguardo alla canzone del grande Fabrizio De André. In realtà siamo venuti a un momento importante, perché dicevamo prima di De André di un appuntamento importantissimo degli amici di Effetti Sonori di domani sera alla sala Furio del Furia, che mettono in scena, sì, no? Sì, ecco, Amor Bizzarro. Ce ne volete parlare? Sì. Non dico brevemente, vi potete anche dilungare. Vogliamo capire bene. Fateci capire perché domani sera noi saremo presenti, ma dovranno essere presenti in tanti. Dovranno essere presenti in tanti, innanzitutto perché è comunque un momento di convivialità, anche secondo me, che dovrebbe riunire anche il paese. Il paese, secondo me, c'è sempre più bisogno di questi momenti, senza dubbio, un po' che riaffermano il campanilismo e l'appartenenza, sì, del menù ne parliamo tutti. E poi del menù ne parliamo. E poi perché a nostro avviso noi siamo un po' di parte, sì. Però sicuramente uno spettacolo bello in cui coloro che lo hanno realizzato hanno veramente messo tanto tanto impegno. Tant'è che adesso stanno facendo le prove. Infatti li salutiamo, anche se loro probabilmente non ci stanno ascoltando, perché aggiungo che una delle cose che secondo me è più bella in queste rappresentazioni è vedere ragazzi giovanissimi che affrontano il palcoscenico con disinvoltura, ma altrettanta disinvoltura viene da persone adulte che forse è più difficile, anche più, sì, difficile, anche meno abituate, esatto. Forse e veramente c'è l'incoscienza del ragazzo, sì, esatto. E poi questa visione d'insieme, ragazzi giovani e persone meno giovani che hanno, diciamo, qualcosa in comune, è molto bello, sì. Secondo me, certo, è uno spettacolo di cabaret musicale, ecco, che questo si articola, mi affascina, perché sì. Il cabaret musicale vuol dire che non è uno spettacolo musicale soltanto, è uno spettacolo anche recitato con brani tratti anche da opere, sì, drammatizzazioni. Diciamo che c'è il filo conduttore, è l'amore. È l'amore, Amor Bizzarro. l'ammorbizzato. Tutte le sfaccettature dell'amore, no? In 10 scene, si è l'articolo in 10 scene. Io arrivo a malapena a 2, domani sera se vengo voglio uscire. E prende, diciamo, sì, in esame tutti gli aspetti dell'amore, quindi la tenerezza, l'innamoramento, la seduzione, l'amore eterno, l'amore tradito, l'amore perduto, l'amore per ridere, anche più goliardico, l'amore anche pudico dell'Ottocento, quindi che l'amore, diciamo, in chiave ironica verrà affrontato. Ci saranno anche degli intermezzi di poesie, filastrocche, di canti, di momenti corali. In scena vanno 24 persone? In scena vanno 24, più di 24 più. Persone, in realtà sono 24 allievi, 24 ragazzi del coro, più tutti gli allievi del corso di canto, quelli più giovani e diversamente giovani, come dice Roberto. E più anche il coro che partecipa. E il coro, ecco, di voci bianche, 15 bambini del coro delle voci bianche. Quindi, ora, a parte tutto il resto che è molto interessante, io la guardo anche da un punto di vista più specifico, se vogliamo. Sì, cioè, proprio come è un lavoro, no, sì. È un lavoro importante, cioè mettere in scena tante persone. È un lavoro corale senza dubbio. Chi lo cura principalmente? Elisa Pasquini e la maestra, è la maestra di canto Elisabetta Materazzi, con il supporto notevole di Roberto Leali e Graziella Materazzi, che ha scritto lei proprio tutto il canovaccio dello spettacolo, e anche, diciamo, l'introduzione e la parte finale, il rima, l'introduzione di apertura allo spettacolo e la parte di chiusura. Mi viene in mente il poeta quando dice: ed è bellissimo perdersi in questo mare. Domani sera tra l'altro è uno spettacolo che spazierà, diciamo, in tutti i generi musicali, abbraccerà un po' tutti i generi musicali, da lirica operistica, canzoni romantiche italiane del quartetto Ceta, di Claudio Villa, canzoni popolari, musica pop, anche Elton John, come hai detto te, e poi anche abbiamo due momenti di omaggi a due artisti scomparsi, uno italiano, che è lo stornellista di Firenze, che ora non gli viene in mente, Riccardo Marasco, e poi a David Bowie, che... Beh, quindi c'è anche un momento di ricordo. Io vado. Quindi diciamo che è per tutte le fasce di età. Beh, tutte le fasce di età e anche per tutti i gusti. Per tutti i gusti, esatto. Sì, è un modo come un altro per far conoscere ai ragazzi giovani e per confrontarsi anche con questo tipo di musica che è sconosciuta alla maggior parte dei ragazzi, no? Sicuramente. Dei giovani. Sì. Mentre loro, se vedono una rappresentazione anche alla televisione un po' passata, degli anni 70 o 60 del quartetto Cetto, te lo sanno riconoscere, perché sono abituati a masticare un po' di queste cose, proprio grazie a questo coro, il nostro patrimonio musicale è sconfinato, per cui, insomma, certe volte io mi rendo conto che ho comunque una bambina che ha 14 anni, che magari parlando do per scontato la conoscenza di alcuni autori, ma come questo non lo senti? Dice, ma chi è? E in effetti è... cioè conoscere anche la nostra storia, la memoria, cantautori, è importante. E, per esempio, anche la parte lirica, no? Sì, insomma, è anche difficile, è impegnativa. Sì, ecco, vedere che l'orecchio è abituato anche a un certo tipo di musica è una bella cosa per una ragazza di 15-20 anni, o conoscere un pezzo di lirico, oppure della Vedova Allegra, che sicuramente in età più avanzata apprezzeranno molto di più, apprezzeranno ancora di più quello che stanno facendo, adesso. Perché io sento proprio la mancanza, cioè la mia ignoranza è veramente sconfinata. Guarda, è un'occasione questa, vieni a vedere lo spettacolo, perché effettivamente sì, perché, troverai sicuramente qualcosa che ti ma piace. Ma in effetti è un momento di secondo me, vabbè, di conoscenza da parte dei ragazzi che sono più giovani, di tutto il nostro patrimonio musicale, anche quello più folcloristico, certo, legato alle nostre zone. Però è anche un modo per quelli un pochino più grandini come noi, ecco, di riscoprire il passato e ecco, anche... Io non so veramente, Enzo, dopo stasera come farai a convivere con la tua ignoranza, perché guarda, sono ormai oltre 40 anni che ci convivo, quindi sono abituato. Oltre, ma senza dire quanto. Ma io direi di rifermarci ancora un attimo. Ricordiamo che appunto domani sera alle 21 in Sala Furia del Furia abbiamo il Amor Bizzarro di Effetti Sonori. E tra poco ci risentiamo, ahimè, per l'ultimo appuntamento, perché qui il tempo vola sempre, ma tirando. Finalmente avremo la ricetta dei tortellini alla panna. E allora buon ascolto sulle F frequenze. Love, c'è anche l'amore tormentato. Sì, questo era molto tormentato, era un doppio album. Mi diceva Laura, l'amore in tutti i suoi aspetti, le sue declinazioni. L'amore bizzarro. L'amore bizzarro. Bizzarro. Siamo arrivati alla fine. E questo... da una parte mi fa piacere perché vuol dire che ci avete raccontato cose interessantissime, perché anche questa sera l'ora è volata. Che cosa dire in conclusione, Marcello? Te sarebbe meglio niente. Quindi, diciamo, per non arenare questa atmosfera creata, siamo con Laura Moretti e Nadia Quadrini e lasciamo a loro diciamo, le ultime parole di questa trasmissione. Ricordiamo ancora una volta l'evento di domani sera in sala Furio del Furia. Sì, alle ore 21. A Foiano della Chiana, perché certo, ci ascoltano anche da fuori. Di cabaret musicale. Intitolato Amor Bizzarro. Una miriade di ragazzi che più giovani e meno giovani che interpreteranno e faranno. Tra l'altro mi sembra di aver capito che è anche un ambiente sano sul quale non solo i giovani che si sentono portati o interessati a certe attività artistico-musicali possono partecipare, ma magari da visitare anche da genitori e da consigliare. Per esempio i più piccoli fanno parte delle Voci Bianche, che è un piccolo coro, normalmente la maggioranza sono bambine, devo dire la verità. Bambine? Però è aperto a tutti, maschietti e femminucci. Sentirò i miei. Il coro, loro praticamente hanno anche loro degli appuntamenti. Dei momenti fissi, diciamo, di crescita. Di crescita. Io direi questo comunque, perché siccome voi avete molta carne al fuoco, molti corsi, le rimandiamo anche al sito. effettisonori.it e alla vostra pagina Facebook, dove possono trovare praticamente tutti gli appuntamenti, tutte le informazioni di cui abbiamo parlato e molto di più, e anche riferimenti per potervi contattare per diventare parte di questa grande famiglia ed associarsi. Che fa sempre comodo, perché finiamo in questo modo. Un'associazione non a scopo di lucro, siamo comunque un'associazione che ha bisogno il baratto, diciamo, che non funziona anche solo con il tesseramento, che è banale, no? Il tesseramento che è minimo, insomma, anche come contributo. Certo. Però fa comodo, perché voglio dire, serve, non abbiamo detto appunto, non per scopo di lucro, ma per la crescita anche dei ragazzi stessi. E poi immagino, visto che voi siete degni rappresentanti, si mangia anche bene, perché Laura e Nadia fanno il catering nelle occasioni. Forse non ci siamo spiegati. Allora, noi siamo le addette al catering, ma in effetti nelle occasioni quando c'è scambio tra cori, per esempio. Per cui noi siamo quelli che decidiamo, allora te che porti, porti i dolci, io porto il salato, allora quanti dolci vanno fatti e così. E poi organizzate le mangiate. Sì, organizziamo le cose. Speriamo di essere... Diciamo che siamo state prestate stasera a questa ufficialità da PR. Sì. E l'avete fatto nel migliore modo. E anche come prima esperienza non è male, direi. No, anzi, complimenti. Io assolutamente, guardate, se venite venerdì prossimo io sto a casa. Grazie, no. Invece noi gentile. Volevamo veramente ringraziarvi a nome di tutta l'associazione, perché ci date comunque un'opportunità di visibilità che è importante. Ma per noi, ora seriamente, per pochi secondi mi perdonerete, per noi è davvero un piacere raccontare e portare un po' alla luce esperienze del genere, dove persone senza nessun scopo di lucro portano avanti queste cose. È un progetto per una crescita anche più sana e anche più eclettica dei ragazzi stessi, no? E poi si parla di arte, a noi ciò che per noi è sconosciuto ha sempre questo fatto. Mi sembra giusto, io non direi altro. Siamo comunque appuntamento. Mi sembra che è venuto parecchio bene. Ringraziamo. No, non ci freghiamo nel finale. No, esatto. Ringraziamo Laura Moretti e Nadia Padrini. Grazie a voi. Ci diamo appuntamento ovviamente per venerdì prossimo. Alle 22 su Piazza Alta. Schiumeggiante puntata. Vi diamo appuntamento anche a domani con i programmi di Radio F. Salutiamo alla parte tecnica Simone. No, perché faccio la sigla, se no è inutile farla. bella, ma mi dicono anche che c'è una filastrocca finale. E appuntamento ci segnala dalla regia gli appuntamenti di sabato, che sono molto, e di domenica. E forse ci potrebbero essere delle sorprese. Sì, vedremo. State connessi, state in contatto con Radio F, perché sicuramente ci saranno tante cose oltre allo sport. Ma prima di concludere, concludiamo con una filastrocca che le nostre ospiti ci vanno testè a leggere. Filastrocca che è stata scritta da Graziella Materazzi. Prego. Gentili spettatori, signore qui sedute, finisce qui la festa, si passi alle bevute, con l'animo sereno, lo spirito leggero, il cuore rilassato, lo sguardo lieto in vero, l'amore ci accompagni lungo la nostra vita, proibito sia ad alcun pensar che sia finita. L'amore ci riservi ancora tante sorprese, e non ci sia concesso mandarlo a quel paese. Chi ama giovane è sempre, è forte e ardito è il sale, di un mondo sgangherato che non ci farà del male. Amor, passione e incanto cancellano gli affanni, pure se c'hai la sciatica o son passati gli anni. Amore anche tradito, pagato o che non dura, guarisce ogni malanno, è l'unico che cura. Tiene in fermento il cuore, mantien fresca la mente e qualche dispiacere, credete, non si sente. Perciò noi siamo grati, fedeli, amor che vale e fa di nostra vita un lungo carnevale. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla parte tecnica Simone. Une. Non ha fatto le riprese, ma salutiamo Paolo. Aulo. Le riprese le ha fatte Emma. Emma. A venerdì prossimo.